dolce vita suona la tromba, in quei locali dove si balla la rumba. Per gente che ascolta distratta la sua musica perfetta, nella penombra si scorge la sua ombra, tra una spina di birra e una samba. Un amatore beve ogni suo silenzio, ogni nota come un liquore, come un firmamento. Ed improvviso scese dal cielo un angelo, piano piano lo prese per la mano e lo portò più lontano, a suonare per le nuvole del cielo, a suonare per i campi in mezzo al grano, e le stelle lo accompagnavano senza freno, ed il mondo era pieno del suo suono. Per i più non conta niente, per loro è solo un deficiente, non hanno cervello nella mente, né fiato, né fiuto, né corrente. Tra l'indifferenza della gente, imperterrito lui suona divinamente e lancia le sue frecce sorridente. Chi è di suo non ha bisogno proprio di niente. Ed improvviso scese dal cielo un angelo, piano piano lo prese per la mano e lo portò più lontano, a suonare per le nuvole del cielo, a suonare per i campi in mezzo al grano, e le stelle lo accompagnavano senza freno, ed il mondo era pieno del suo suono. Dalle sue labbra un concerto di concerti, un susseguirsi di movimenti, di adagi, ritmi incandescenti, indeci nodi sciolti nei venti. Dalla tromba uscivano sirene, entravano come rugiada nelle vene e lasciavano ai tuoi piedi mille corone. È una musica che musicava il cuore. Ed improvviso scese dal cielo un angelo,